faccio distribuzione, predico il Vangelo ovunque vado, nelle strade, ovunque. Molti la vedono così, per le fazioni, la religione, invece non è così. Gesù è un'altra cosa. Salvatore, il nostro Salvatore, bisogna conoscerlo. Che noi intanto siamo cristiani, loro si spacciano per cristiani e non lo sono. Per noi Gesù Cristo è il vero Dio, è venuto in carne. Per loro invece è un angelo, è una creazione di Dio. Quindi si escludono subito. E quindi sai, quando tu porti Gesù a casa tua, capisci che la tua vita viene stravolta, come meno viene stravolta, perché conosci Dio, scopri che è Dio davvero, perché ci puoi arrivare solo per la fede. E quindi hai bisogno di fare questa ricerca e far crescere questa fiducia che si chiama fede, in poche parole. Il Vangelo poi è capace di portare davvero una rivoluzione positiva, cioè elevare l'uomo, perché prima di tutto ti rieduca, cioè è un percorso anche di rieducazione, di riscoprire delle virtù, delle buone maniere. Cioè non è che uno, capito, che era un ladro, si converte e continua a fare il ladro. No, smette di fare il ladro, smette di bestemmiare, smette di fornicare. Quindi è qualcosa di veramente un impatto sociale enorme, enorme. Infatti poi la differenza fra i paesi che un tempo erano cristianizzati e gli altri, cioè, era grandissima, no? Invece adesso vedi che c'è il secolarismo, il materialismo, un abbandono della fede. Per prendere l'esempio di San Paolo, prima faceva del male alla gente, andava perseguitando le persone, dopo invece ha vissuto la sua vita nell'amore di Dio, cioè amando il mondo, amando i suoi nemici. Quindi capisci che c'è una grande differenza. E questa è la potenza del Vangelo che ancora oggi è in mezzo a noi. Senza sapere che appunto molti vivono da miserabili, cioè senza appropriarsene, capito? Non si tratta di rubare Dio, è Dio che ci dona, ci fa il dono. Il cristianesimo è fondamentalmente questo, una elevazione dell'uomo perché incontra nuovamente Dio e rientra nel paradiso perduto, capito? Cioè dentro il cuore del credente c'è il nuovo giardino, capito? Della presenza di Dio, l'amore di Dio, è una vita diversa.